Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, benvenuti. Oggi inizio a parlarvi di coronavirus di prima mattina. Solitamente facciamo il punto a mezzogiorno, ma oggi lo faccio perché in linea con noi abbiamo il piacere di avere una virologa di fama mondiale, la professoressa Ilaria Capua, che fa ricerca e insegna presso l'Università della Florida. Buongiorno professoressa, grazie. Buongiorno a voi e buonanotte qui. Eh sì, è vero, perché io infatti la ringrazio doppiamente per questa sua disponibilità. Professoressa Capua, allora, lei sa bene che qua, almeno in Italia, è psicosi, le paure sono più contagiose a volte degli stessi virus e sicuramente la rete amplifica questo clima di allarme. Assolutamente, devo dire e posso confortare e tranquillizzare gli ascoltatori e le ascoltatrici italiane che qui a Gainesville, Florida, non si vede una mascherina, non c'è panico, non ci sono farmacie prese d'assalto. Quindi diciamo che la percezione del problema è ben diverso. Professoressa Capua, questi sono degli eventi rari, ma negli ultimi anni questi eventi rari sono già stati 3, quindi è probabile che dovremo abituarci a questo genere di emergenze? Allora, il passaggio dei virus dagli animali all'uomo è successo, è un fenomeno naturale, accade da millenni. Forse scommetto che quasi tutti gli ascoltatori non sanno che il virus del morbillo deriva da un virus delle mucche. No. E quando sì, e il virus della peste bovina, che è molto vicino, quando l'uomo sapiens ha domesticato gli animali, è entrato in contatto con questa popolazione di mucche, ma parliamo ovviamente di decine di migliaia di anni fa, e in questo modo il virus è passato all'uomo. Abbiamo altri esempi, abbiamo Ebola, che anch'esso è un virus che ha come ospite selvatico un pipistrello, e che però è un virus ben diverso da questo coronavirus, e magari ne parleremo più avanti. Per quanto riguarda i coronavirus in particolare, questo in effetti è il terzo caso in meno di 20 anni. Quindi diciamo che se guardiamo al problema malattie che arrivano dal regno animale, dal mondo animale, e che si trasmettono all'uomo, questo è un fenomeno che accade da millenni e forse adesso accade un po' con maggiore frequenza grazie al fatto che viviamo nelle megalopoli, viviamo alcuni di noi in condizioni igieniche non proprio appropriate e abbiamo abitudini alimentari molto diversi, come ad esempio in Oriente si sa che è molto appetibile ed è parte della loro cultura scegliersi gli animali vivi prima di portarsi da casa per cucinarli. Quindi loro vanno al mercato e dicono: vogliono quel pollo, voglio quel coniglio, voglio quel zibetto, e l'animale viene macellato di fronte alla persona, e la quale porta a casa l'animale appena macellato. Questi sono fenomeni che succedono in maniera diversa in varie parti del mondo. Quindi questo lo dobbiamo dare per assodato, è una nuova realtà alla quale si aggiunge però la globalizzazione, e poi si aggiunge un terzo strato che è quello dell'informazione e della psicosi. Io credo che noi dobbiamo iniziare ad abituarci, a essere un po' meno impauriti di queste emergenze. C'è una regola non scritta in natura: se un patogeno è altamente trasmissibile, come sembrerebbe essere questo coronavirus, è generalmente molto poco letale. È una forma di bilanciamento naturale che madre natura si è data. Infatti, per darvi un esempio proprio chiaro, il virus di Ebola è un virus che è molto poco trasmissibile, perché si trasmette solo con il sangue o materiale infetto, non si trasmette per via aerea, ma è un virus molto letale. Nell'ultima epidemia di Ebola, che peraltro è ancora in atto, vorrei ricordare, diciamo, si sono osservati tassi di mortalità nelle persone anche sopra il 50%. Per fortuna Ebola non è così contagioso. Quindi io vorrei tranquillizzare gli ascoltatori. Queste cose sono successe nel corso degli anni. Oggi siamo molto più attrezzati per rispondere, perché abbiamo una comunicazione che funziona, perché abbiamo una sanità che funziona, perché abbiamo protocolli di risposta che funzionano, e soprattutto abbiamo anche gli antibiotici e abbiamo tutta una serie di nuove metodologie terapeutiche, diagnostiche, di sostegno, che veramente non dovrebbero fare preoccupare nessuno in Italia. In Italia come... abbiamo un servizio sanitario che funziona e che se ne dica, e questo bisogna tenerlo ben presente, e soprattutto bisogna rispettarlo, quel sistema sanitario, nel senso che bisogna evitare di ingorgarlo. Quindi vaccinatevi per l'influenza, siete ancora in tempo, perché quell'ospedale sarà chiamato a dover affrontare dei casi che sono, diciamo, causati da un virus nuovo, quindi avranno bisogno di più attenzione nei confronti di una situazione completamente nuova. Professoressa Capua, i ricercatori dello Spallanzani di Roma hanno sequenziato e isolato il virus. Alla luce dei dati oggi a disposizione, che vengono messi a disposizione anche dai laboratori di ricerca che in tutto il mondo stanno lavorando in questa direzione, che cosa sapete di questo virus? Viene spesso fatto il confronto tra questa variante del coronavirus, l'epidemia influenzale, la SARS, la MERS, si parla di letalità, contagiosità, mortalità. Sono tutti termini che noi maneggiamo con un po' di difficoltà, perché sono termini tecnici a cui non siamo abituati e a cui ciascuno di noi prova a dare il significato che, no, che crede più vicino. Professoressa Capua. Certo. Allora, dunque, la trasmissibilità di un virus è la capacità di questo virus di contagiare altri soggetti sani. I dati che abbiamo oggi in mano ci fanno pensare che il numero reale di contagiati in Asia sia di molto superiore ai dati dichiarati, non per, diciamo, scarsità di trasparenza, ma perché controllare la malattia epidemica in 1.450.000.000 di persone che vivono in situazioni o di estrema povertà o nelle megalopoli o nelle grandi città, insomma, è molto difficile. Però in realtà questa è una buona notizia, perché tanto più sono gli infetti e rispetto al numero dei morti o dei casi gravi, sì, vuol dire che il denominatore aumenta e quindi il virus è meno pericoloso. Cioè, certo, se io ho 30 morti su 300 o ho 30 morti su un milione, beh, cambia. È un po' diversa la situazione. Lo scenario che vediamo è che il numero di morti sia una percentuale minima degli infetti, addirittura più bassa della mortalità che provoca l'influenza ogni anno. Quindi questo virus, secondo me, si comporterà come un virus influenzale, anzi probabilmente sarà anche meno aggressiva, per esempio, del virus influenzale del 2009, anche quello arrivava dal serbatoio animale. Quello, secondo me, di cui bisogna essere consapevoli è che la preoccupazione delle autorità in questi casi è che se si ammalano tante persone tutte insieme, ipotizziamo in Italia, non in Cina, dove hanno tante riserve, hanno tante persone che lavorano, hanno una forza lavoro, insomma, notevole, basta. Sì. Insomma, l'ospedale, basta vedere l'ospedale, hanno tirato da solo. Ecco, 10 giorni, ecco, hanno fatto un ospedale. Ecco, se dovesse accadere in Europa, diciamo, e dovessero ammalarsi parecchie persone, si potrebbero rallentare o addirittura bloccare i servizi essenziali, perché se si ammala il 20% delle persone che lavorano nelle ferrovie, i treni non partono più. Certo. Se si ammala il 20% del personale ospedaliero tutto insieme, non dico che gli ospedali si fermano, ma lo sappiamo che sono già tirati con il personale. Quindi quello che si sta cercando di fare è di limitare il numero di casi al di fuori della Cina. Quindi attraverso le misure di quarantena e di restrizione che sono state messe in atto dal governo cinese, verosimilmente il numero di persone infette che usciranno dalla Cina sarà minore rispetto a quello che avrebbe potuto essere, e quindi anche l'infezione, qualora dovesse arrivare in Europa, cosa che io credo, con tutta una serie di attraverso una serie di canali che possono essere i passeggeri che arrivano non necessariamente solo dalla Cina, si cerca di fare in modo che le persone dei paesi vergini, quindi che non hanno un elevato numero di infetti, non si ammalino tutte insieme. Professoressa Capua, che cosa prevede? Quanto durerà questa emergenza? Beh, allora, quanto durerà? Io credo almeno un anno, insomma, ci metterà un annetto a fare il giro del mondo. Io credo però veramente, e lo dico a ragion veduta, che le fake news e il panico seminato così un po' per gioco, un po' per dispetto, un po' per mancanza di intelligenza e di lungimiranza possono fare molti, molti, molti più danni rispetto al coronavirus. Professoressa Capua, vaccino vicino o lontano? Vaccino vicino purtroppo no, perché esiste qualche prototipo, esistono degli studi che sono stati fatti per il coronavirus della SARS, dai quali possiamo partire. Però comunque non saranno tempi rapidi, ci vorranno almeno 6 mesi per metterlo a punto e poi bisognerà metterlo in produzione, quindi non prima di 8 mesi, un anno. Grazie professoressa Capua per il tempo che ci ha dedicato, le auguro una buona notte e noi invece ai miei ascoltatori una buona giornata. Buona giornata. Bene, per oggi è tutto, non mi resta che salutarvi, vi do come sempre appuntamento a mezzogiorno nello spazio dedicato alle notizie, subito dopo per la diretta Facebook. Oggi insieme a noi ci sarà il dottor Saverio Cinieri, che è presidente eletto dell'Associazione Italiana Oncologia Medica, pronto a rispondere alle vostre domande. Come sapete, oggi è la giornata mondiale contro il cancro, la comunità scientifica di tutto il mondo lavora per rendere i tumori sempre più curabili, ma ciascuno di noi può fare la sua parte. L'OMS ci ricorda che almeno un terzo dei casi può essere evitato grazie alla prevenzione e agli stili di vita sani. Un dato? Il fumo di sigaretta, ad esempio, è responsabile del 22% del totale dei decessi per tumore. Nella diretta Facebook di oggi, allora, parliamo di prevenzione e di stile di vita. Tutte le vostre domande, se volete già anticiparmele via WhatsApp, 349-238-6666, dillo all'amico, io vi aspetto a mezzogiorno e poi per la diretta Facebook insieme a Saverio Cinieri.